spettatrici di Rai Onda Rossa, mi trovo su un pendio che dà di fronte all'ex presidio, perché insomma è stato sgomberato in mattinata, e ci siamo radunati nei pressi del presidio e stiamo valutando cosa fare, e insomma, alla luce pure di quello che è successo questa mattina. E questa operazione di polizia veramente scandalosa, chi ha potuto vederla ha visto praticamente demolire un pezzo di autostrada per far spazio a mezzi blindati, carabinieri, polizia e infine in questo momento le ruspe, insomma i mezzi di aziende che stanno bonificando l'aria secondo la loro interpretazione, per poi successivamente impiantare il cantiere. E diciamo che questa mattina sono stati aperti dai grossi bracci meccanici due varchi appunto sui due lati dell'autostrada, sventrando l'autostrada, un'operazione che io non avevo mai visto fare e che insomma lascia allibiti, e poi si è passati appunto a smontare le barricate che erano state installate ai lati dell'autostrada. E a questo punto è cominciato un fittissimo lancio di lacrimogeni e si è cercato per più di un'ora di fermare le ruspe, impedendo agli addetti che operavano sulle ruspe di insomma impedendo la visibilità agli addetti. E dopo un'ora insomma la situazione si è fatta più pesante, perché è cominciato appunto il lancio di lacrimogeni e insomma si è risposto con tutto quello che si aveva a disposizione per respingere questo attacco. Si è retti per più di un'ora, alla fine un gruppo di appunto di finanzieri e carabinieri è riuscito a penetrare attraverso le barriere, e poi attaccandoci anche dagli altri due lati ci hanno spinto appunto sui costoni che stanno di fronte al piazzale dove c'era il presidio. La situazione, per quanto riguarda la situazione dei fermati, non ho io notizie bene, però se aspetti un attimo magari ti passo qualcuno che è più informato. Per il resto insomma si è vista proprio una brutale operazione di polizia, e dall'altro lato la determinazione, insomma tutto il movimento NoTav che ha risposto con decisione a questa ennesima provocazione che subisce questo territorio. Quindi sì, prima di passare la linea ad altri, ti volevo chiedere, attualmente la situazione si è tranquillizzata, nel senso che sono finite le operazioni di polizia, oppure in qualche modo, cioè, al di là del clima di tensione che immaginiamo resti, ci sono ancora operazioni da parte delle forze dell'ordine, oppure una volta preso il presidio si sono fermati? Allora guarda, sì, le operazioni si sono fermate. Sono state fermate un po' di persone, sono state radunate sul piazzale insomma dell'ex presidio, e i legali stanno contattando insomma per valutare la situazione legale di tutti i presenti, eppure per organizzarci insomma per un deflusso qua dalla zona. E comunque la situazione adesso appare tranquilla, forse anche grazie alla bellezza dei luoghi. Va benissimo. Va bene. Senti, ci passi un altro compagno allora lì per vedere un po' la situazione dei fermati? Sì, te lo passo, ma tra qualche minuto. Va bene, allora ci sentiamo più tardi, fra una decina di minuti. Ti chiamiamo dopo. Ok, perfetto. Grazie, a più tardi allora. Ciao. Ciao.